E ora ci addentriamo ne L'isola che non vedi. Percorsi, natura, vita. A cura di Maiorca Trekking. Ciao a tutti e bentornati a quello che speriamo diventi il vostro immancabile appuntamento settimanale del venerdì mattina con L'isola che non vedi. Un caloroso buongiorno a tutti gli ascoltatori di Italiana da parte mia. Io sono Sergio, uno dei fondatori di Maiorca Trekking, e oggi siamo qui, come anticipato la scorsa settimana durante la nostra puntata zero, per riportare indietro nel tempo le lancette dell'isola di Maiorca di circa 5.000 anni. Durante questo breve viaggio radiofonico nel tempo vi parlerò di come i primi uomini siano giunti sul territorio dell'isola e di come nel corso dei millenni furono in grado di creare una cultura autoctona di cui ancora oggi, nonostante i tanti ritrovamenti archeologici, si sa veramente ben poco. Ciò che oggi vogliamo condividere con voi non è solo la vita dei maiorchini preistorici, ma soprattutto i riti e i luoghi che da sempre sono connessi alla loro morte. Per cui restate con noi su Italiana, preparate le valigie, si parte! Noi, ragazzi di oggi noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi, siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali, stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, qualcuno ci può offendere. Sappiamo in cosa credere. Devi venire con noi. Siamo i ragazzi di oggi noi. Dai, coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Na na na, na na na. Siamo noi. Siamo i ragazzi di oggi noi. I veri amici che tu non hai. E tutti insieme si può cantare. Ragazzi di oggi, ragazzi di oggi noi, noi sappiamo in cosa credere. Ragazzi di oggi noi, ragazzi di siamo il fuoco sotto la cenere. Non farti prendere, da questo eterno candere. Noi siamo quello che può succedere. Non fare spegnere, la voglia che di ridere. Siamo quelli in cui tu puoi credere. Devi venire con noi. Siamo i ragazzi di oggi noi. Dai, coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Na na na, na na na. Siamo noi. Siamo i ragazzi di oggi noi. I veri amici che tu non hai. E tutti insieme si può cantare. Ragazzi di oggi noi, ragazzi di oggi noi. E poi vedrà che ti piacerà. Dopo questo splendido brano, rieccoci all'isola che non vedi, pronti ad iniziare il nostro viaggio nel tempo. Rispondendo prima di tutto ad una domanda apparentemente banale: come, quando e da dove sono arrivati i primi abitanti di Maiorca? Beh, l'arrivo dell'uomo nelle Baleari è e rimarrà per sempre un mistero, avendo l'unica certezza che i primi coloni arrivarono per forza di cose dal mare, visto che parliamo di un'isola. In assenza di prove, l'ipotesi più probabile elaborata dagli scienziati è che la prima presenza umana si ebbe sull'isola di Ibiza, l'unica che può essere vista a occhio nudo dalla costa continentale, e che una volta lì i primi uomini abbiano avuto un contatto visivo con Maiorca e poi da qui con Minorca, colonizzando così poi tutto l'arcipelago. Per conoscere quando dobbiamo affidarci alle tracce più antiche di presenza umana ritrovate sull'isola, situate a Sommagge, lungo la strada che collega Palma a Valdemossa, dove sono stati trovati reperti databili intorno, udite udite, al 5000 a.C. Parliamo di ben 7000 anni fa. Questo luogo è chiaramente visitabile, trattandosi semplicemente di un abrigo, ossia di un rudimentale riparo scavato nella nuda roccia dove un piccolo clan, composto da poche unità, si stabilì per cacciare sulle montagne circostanti e per ripararsi dalle intemperie. L'uomo maiorchino di Sommagge si nutriva di animali e di piante, utilizzava sì il fuoco per riscaldarsi, ma ancora non era in grado di creare utensili da poter sfruttare per le sue piccole esigenze quotidiane. Solo 2000 anni più tardi si intravedono i primi lievi cambiamenti. Le comunità umane si raccolgono in gruppi di 40-50 unità e si iniziano a costruire i primi pezzi di ceramica, incorporando lentamente piccoli progressi tecnici. A partire poi dal 2000 a.C. si verificano anche importanti cambiamenti di natura funeraria. Infatti, mentre le comunità vivevano ancora in roccia o in strutture, diciamo così, molto ma molto precarie, i morti godevano già del privilegio di essere sepolti o in caverne scavate nella roccia o in strutture più complesse chiamate dolmen. Le caverne funerarie avevano un'entrata, un'anticamera e una grande camera sepolcrare in cui su una panchina o in delle piccole nicchie ricavate dalla roccia venivano deposti cadaveri e offerte votive. Noi di Maiorca Trekking le abbiamo visitate e vi posso assicurare che si resta sorpresi dalla perfezione di queste cavità e dalla rigorosa disposizione di tutti gli elementi architettonici secondo uno schema molto preciso e standardizzato, davvero incredibile se pensiamo che parliamo di millenni fa. I dolmen invece furono costruzioni funerarie di tipo megalitico perché contraddistinti da grandi pietre piatte disposte verticalmente su cui poggiava un enorme lastra orizzontale a fare da tetto. Ma la cosa che stupisce di più dei dolmen, al di là della tecnica costruttiva, è che erano tutti orientati a sud-ovest, verso il tramonto al solstizio d'inverno. Forse perché la morte allora veniva vista non come una risurrezione dell'anima, ma come il definitivo declino della vita. Ma il vero salto culturale l'isola lo ebbe a partire dal 1000 a.C., con l'inizio del periodo detto talaiotico, uno dei periodi più interessanti e originali dell'intera storia delle Baleari. Ascoltiamo adesso un po' di musica e ci risentiamo fra poco per continuare il nostro viaggio nel tempo. Eccoci tornati, cari amici, siete ancora in compagnia di Sergio e quest'oggi con l'isola che non vedi stiamo scoprendo tutto il fascino della preistoria di Maiorca. Parlavamo poco fa della cultura talaiotica, sviluppatasi in un periodo ancora oggi circondato da grande mistero, su cui l'archeologia sta faticosamente scoprendo molti dettagli che hanno ancora però, come sempre accade, generato nuove domande. Ciò che è chiaro oggi ai ricercatori è che all'inizio dell'era talaiotica si verificarono grandi cambiamenti nella società maiorchina. Da una società pacifica organizzata intorno a gruppi familiari si passa ad un'organizzazione sociale altamente gerarchica che dà il via alla costruzione dei talaiot, costruzioni in pietra a forma di torre che sono disseminate un po' ovunque sulla nostra isola e di cui ancora oggi non se ne conosce lo scopo. Si è parlato nel tempo di torri difensive, torri di avvistamento e di vigilanza, case di capi tribù, luoghi di sepoltura, ma ad oggi sono visti più come edifici di ostentazione, di prestigio, di potere. Questo grande cambiamento riguarda anche il culto dei morti, il cui studio ebbe una svolta quando negli anni 50 si scoprì la necropoli dei Fenici di Sonserra de Marina, un cimitero composto da 143 tombe ospitanti ben 425 individui di età compresa fra i 33 e i 38 anni, e dove sono state ritrovate ossa umane, ceramiche, vasi e altri oggetti vari di uso personale. Ma le sorprese non finiscono qui, perché alcuni crani ritrovati mostrano evidenti segni di operazioni chirurgiche effettuate per trapanamento, a cui molti individui pare addirittura siano sopravvissuti fra indicibili dolori. Fin dai primi scavi, la grande città che avrebbe dato origine a una necropoli di queste dimensioni è stata ricercata senza successo in tutta la zona. Tuttavia, ultimamente è stata avanzata un'ipotesi secondo cui potrebbe essere una necropoli dedicata solo alle classi dominanti, se non di tutta l'isola, di buona parte di essa. Come alcuni ricercatori sottolineano, infatti, potrebbe trattarsi di una classe sociale privilegiata dell'isola che avrebbe potuto e voluto mantenere una certa purezza etnica per secoli, mantenendo un rigido controllo sul suo accoppiamento. Questi individui avrebbero costruito qui le loro tombe di fondo per rappresentare il loro grande prestigio in vita. Proprio questa meraviglia, poco conosciuta di Maiorca, sarà il tema della nostra prossima escursione di gruppo di sabato 22 febbraio, durante la quale noi di Maiorca Trekking racconteremo questi e moltissimi altri dettagli storici riguardo un periodo e una cultura che resta forse il principale enigma dell'isola, su cui molti hanno scritto e fantasticato teorie di ogni tipo. Fra le tante, quella che io preferisco personalmente è quella forse più romantica, che identifica i fondatori della civiltà talaiotica maiorchina in un gruppo di guerrieri esuli provenienti addirittura dalla mitica Troia, dopo la distruzione della città e la conseguente dispersione in tutto il bacino del Mediterraneo del popolo troiano. Enea, come ci insegna la storia, sbarcò in Italia e fondò Roma. A me piace pensare che magari uno dei tanti eroi cantati dal leggendario Omero abbia trovato qui il luogo dove poter vivere in pace il resto dei suoi giorni dopo gli errori della guerra più famosa della storia. La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica. Mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare. Spengo ad una anche le stelle. Al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai. Come questo sole che ci illumina. Amami come la terra, la pioggia d'estate. Amami come se fossi la luce di un faro nel mare. C'è solo il vento e porta via l'amore. Cancello coi tuoi occhi le mie fragilità. Rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura. L'istinto di chi poi non se lo immagina. La bellezza di chi ride e volta pagina. E conservo ad una anche le stelle. Le tengo fra le mani, le conto sulla pelle. E bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina. Amami come la terra, la pioggia d'estate. Amami come se fossi la luce di un faro nel mare. Noi vento e porta via l'amore. E siamo giunti così alla fine del nostro viaggio nel tempo. Come sempre vi ricordiamo che Mallorca Trekking è presente sui principali social. Potete visitare la nostra pagina Facebook Mallorca Trekking, l'isola che non vedi, trovarci su Instagram come Mallorca Trekking Project o visitare il nostro archivio fotografico attraverso il nostro account Flickr. Tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi e molto altro ancora sarà il tema della nostra prossima escursione di gruppo, prevista per sabato 22 febbraio, a cui potrete iscrivervi gratuitamente semplicemente accedendo all'evento presente sulla nostra pagina Facebook e prenotando il vostro posto direttamente online. Fate in fretta se volete essere dei nostri, perché ormai restano pochissimi posti disponibili. Non mi resta che salutarvi, auguro a tutti voi un grandioso fine settimana in compagnia di Italiana e vi do appuntamento al prossimo venerdì, dove parleremo di un piccolo animaletto speciale tutto maiorchino. E non dimenticate mai il nostro e il vostro grido di battaglia: vivi la tua isola, scopri le sue meraviglie. Ciao! Questo era L'isola che non vedi. Percorsi, natura, vita. A cura di Mallorca Trekking.